Il punto di Stefano Folli. All'indomani della visita del nostro Premier a Berlino, due considerazioni. La prima, c'era un'evidente simpatia da parte della Merkel e un desiderio di incoraggiare il giovane italiano giustamente orgoglioso e ben determinato ad andare avanti. Questi complimenti non vanno sopravvalutati perché risentono del clima elettorale sottofondo dell'incontro. Tuttavia indicano che qualcosa, anche sotto il profilo psicologico, si muove nella rigida Europa dell'austerità. Secondo, d'ora in poi il sentiero riformatore di Renzi sarà sempre più impervio se davvero egli intende fare le cose seriamente. Le riforme, quelle vere, richiedono tempo e una straordinaria capacità di sconfiggere le resistenze. Le indiscrezioni sul lavoro di Cottarelli nell'oceano della spesa pubblica, ad esempio, segnalano quanto siano drammatiche le anomalie italiane negli stipendi degli alti dirigenti della pubblica amministrazione, per citare solo un caso. Cottarelli fa capire che risultati solidi e duraturi nella riduzione della spesa non sono immediati e per ottenerli occorrerà superare ogni sorta di resistenza. Auguri a Renzi, allora, ha la possibilità di passare alla storia, ma certo non sarà una passeggiata.